C'erano una volta un bambino e un cavaliere dall'armatura scintillante. Iron Man! Che partirono per un viaggio nell'iperspazio. E all'improvviso il cielo si illuminò con i fuochi d'artificio sul castello incantato. Ma non ha senso, tesoro. Sì, mamma, a Disneyland Paris tutto è possibile. A Disneyland Paris la magia diventa realtà. Prenota il tuo soggiorno su disneylandparis.it. Modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Ed eccoci qua, buonasera a tutti carissimi amici, bentornati, benvenuti qui a questa estate meravigliosa, a questo caldo che poco ci dà fastidio. Io sono Simone Pizzi e con me Michele Paola. Buonasera a tutti, bentornati, spero che come noi siate sotto praticamente l'effetto della droga, l'effetto del condizionatore, del latte, acqua e menta, perché noi veramente stiamo morendo di caldo. Beh, stiamo facendo l'aperitivo e facciamo l'aperitivo insieme a voi. Facciamo l'aperitivo insieme a voi. Però facciamo l'aperitivo con menta e orzata. Sì. Non è un aperitivo, insomma, blando. Dei profondi anni 70. Mm-hmm. Però, insomma, d'altronde noi un po' ci veniamo agli anni 70 e se non ci veniamo facciamo in modo di venirci, insomma. Michela, tanta ciccia, tanta roba da dire. Sì, tanta roba. In realtà, sempre la solita solfa. Noi volevamo però fare una cosa un po', un clima un po' più estivo, un po' più, no, però insomma, sì. Diciamo, giochiamo, scherziamo, diciamo cazzate, però poi ci sono anche i temi importanti. No, è che purtroppo siamo circondati da cose di cui bisogna assolutamente parlare, cioè bisogna far sentire la propria voce, quindi sì, volevamo fare una cosa più leggera, ma cercheremo di farla, ma non possiamo esimerci perché comunque il nostro paese soprattutto, ma comunque diciamo che i tempi moderni o contemporanei più che moderni ci impongono di dire la nostra e di schierarci da una parte oppure da un'altra, insomma. C'è bisogno di schierarsi. Sì, assolutamente, e ci schiereremo naturalmente contro i negri e contro questa cosa che bisogna essere tutti buoni, perché via dall'Italia, e questo è, insomma, paese nostro. E non sono d'accordo. Usanze nostre, paese buoi dei paesi tuoi, e non so. Io mi dissocio già subito, perché comunque secondo me secondo me è tutto il contrario di quello che dice Simone sempre, in questo caso ancora di più, quindi in alto i cuori e andiamo subito, io direi subito, cominciamo con la canzone così lanciamo subito il messaggio che vogliamo lanciare, così chi è amico c'è di Salvini eccetera eccetera, chi vuole insomma ancora rompere scatole con sti neri, come dice Simone, va subito negri, a casa, negri, va subito via. Giusto, perché insomma se ti piacciono i negri dillo, insomma, questa è la cosa importante, capito? Importante, e quindi lancia il brano e lanciamo un messaggio che da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, quindi dobbiamo andare tutti uniti e dobbiamo restare tutti uniti per le ingiustizie, contro le ingiustizie. E contro i negri. No, assolutamente no. Domenica pomeriggio, verso l'ora approssimativa dell'aperitivo, io avrei scommesso per zero ascoltatori, invece pare insomma che ci sia tanta gente in chat, quindi salutiamo Davide, salutiamo Michela, ma Michela sei tu, salutiamo, sì. Andy chiaramente, Lobby Frontali, ovviamente Simone Carmine. Cusella, Simone Cusella, Carmine, insomma, via dicendo, Davide Gatti, tantissima meravigliosa gente che è venuta qui a farci compagnia in questo pomeriggio estivo e afoso, dove si parlerà di vari argomenti, soliti argomenti, insomma, noi bestemmiamo contro un paese nel quale noi, dal quale noi vorremmo fuggire, ma allo stesso tempo poi intanto ci consoliamo pensando a dei panini meravigliosi. Però Michela non vuole. Vabbè, ma fa caldo, ma pure sempre questi panini, dai, basta. Pensiamo alle cose serie, pensiamo alla capitana che ha sfidato questa settimana come nessuno mai, l'infallibile, come lo chiama il Cavaliere Nero su Vigireto, l'ha trippato Salvini. È stata una settimana molto intensa questa, è stata una settimana col fiato sospeso e è stata una settimana in cui siamo stati capaci lasciare 40 persone in emergenza sanitaria e umanitaria, marcire su una nave di un ONG tedesca che è la Sea-Watch, non ha altre colpe se non aver comunque raccolto la richiesta di soccorso di questi 40 naufraghi, probabilmente erano anche di più, mi sembra che qualcuno sia morto durante il naufragio, questo però non ne sono certissima. Comunque siamo stati capaci di lasciarli marcire per più di una settimana in acque, più di una settimana non credo, comunque qualche giorno in acque del Mediterraneo, perché comunque questa capitana due settimane addirittura, perché questa capitana si è rifiutata di ha chiesto comunque soccorso a diversi stati che non le hanno risposto, quindi questo c'è da dirlo, o che comunque non hanno risposto come lei avrebbe preferito. Non ha assolutamente accettato di riportare di riportare queste persone, questi rifugiati in Libia, temendo comunque per la loro incolumità, e non ha accettato di perché la Libia ha detto venite, portateceli a noi, perché comunque il trattato internazionale, che comunque è stato fatto prima del governo 5 Stelle tra Italia e gli altri stati membri, vuole che comunque la Libia sia il porto sicuro dove, tra virgolette, vengano smistate queste persone. Quindi, e se la Libia è il porto sicuro, allora preferisco, che so, insomma, il bitume nel quale poi vengo. E vabbè, sta ragazza comunque non ce l'ha fatta, ha detto: ragazzi, io non ce la posso fare, tutti questi negri intorno non ce la posso, io li devo far scendere da qualche parte, li porto a Lampedusa, e ci ha pensato un po' e nel giro di un paio di giorni ha deciso di forzare il blocco e di accettare le conseguenze di questa forzatura, che poi sono state quelle che sappiamo. La ragazza è stata arrestata, il capitano è stato arrestato e la capitana è stata arrestata. Ma basta questa cosa del femminilizzare, cioè il capitano è il comandante della nave. Sì, quindi... vabbè, però purtroppo dei capitani in Italia ce n'è uno, quindi è capitano. Meglio dire la capitana. Ma infatti lei è l'antagonista sessuale de Salvini, il capitano, cioè la capitana, è come Capitan Marvel lei, capito? Quindi è venuta e... che poi tra l'altro... E le abbiamo lette di tutti i colori. Ha rotto praticamente il blocco, è arrivata, ha fatto sbarcare. Ricordiamo che sulla nave c'erano dei deputati dell'opposizione che dicevano che la cosa ridicola era questa forzatura politica tra l'ONG e il nostro governo, perché chiaramente Salvini basa la sua propaganda su quello che è visibile, non su quello che è invisibile. Ma dicevano c'erano più di 1000 persone sono sbarcate durante questi giorni a Lampedusa con i barchini loro tranquilli, trick, però ovviamente l'attenzione era tutta accentrata sulla Sea-Watch, che chiaramente era la pietra dello scandalo. Comunque lei è scesa, è stata arrestata, ha chiesto scusa alla Guardia di Finanza, poi chiaramente... ci sarà insomma il giudice per le indagini preliminari, ci sarà il primo incontro, ma chiaramente sarà difficile, che potrebbe anche venire incriminata, ma sarà difficile che verrà mai condannata, perché come dice anche di Calvo là, come si chiama quello là, di Falco, dice lei comunque non ha fatto nient'altro, fa un soccorso in acque aperte, secondo il diritto delle acque internazionali. Comunque lei non può essere incriminata da nessun paese, e questo è un po' il fatto. Ma la cosa bella qual è stata? La cosa bella è che mentre, perché poi diciamocelo un po' così, mentre che scendeva c'era la gente, ah, ti piace un cazzo negro, capito, queste cose così, che... sì, sì, sono stati veramente, cioè l'hanno insultata, a parte l'hanno insultata in tutto e per tutto, in tutti i modi possibili e immaginabili, una cosa ignobile. C'è stata una deputata della Lega che non, di cui non dico neanche il nome perché non si merita neanche di essere nominata, che praticamente parlava di questa capitana e diceva che dato che era brutta non poteva permettersi di parlare, ci vuole un po' di decoro, quindi la bruttezza è discriminatoria, io sono d'accordo su questa cosa, bisogna dire che no, comunque continuiamo così. Comunque dice Simone Cusella, dice, ma se se ne vanno tutti rimangono sempre i peggio, invece bisogna restare e resistere e lottare col coltello fra i denti. C'ha ragione, vedi, è un esempio che... Agusè, ma vattene all'estero, non rompe coglioni, tu che sei giovane e che vuoi partire, noi abbiamo perso quel treno da una vita, tu sei ancora in tempo, vai, dove andate, ragazzo? Qualcuno deve rimanere a tenere su la barca. Tutto questo... Ci siamo noi, tranquillo. Per una quarantina di persone, mentre negli stessi 12 giorni... con i soliti barchini, sì, sono arrivate più di 300 persone, dice il lobby frontale. Tra l'altro in giornata sono più di un migliaio alla fine, cioè, in giornata oggi stesso su Open c'era praticamente un articolo che diceva che una nave di Open Arms era appena attraccata a Lampedusa con 50 migranti che erano stati salvati nel Mediterraneo. Quindi diciamo che tutto questo non regge. Il problema è... Sì, noi rimaniamo qua, tranquillo, Cusè, noi rimaniamo qui e ti guardiamo scappare. Sarà una cosa lunga, perché conoscendoti ci metterai 40 anni per scappare, però ti guarderemo scappare, insomma. Vabbè, comunque, il discorso è anche che alla fine è tutta propaganda, no? Sta lì... Perché noi continuiamo a pensare che il problema siano i necri, cioè, i necri che stanno lì, fanno il problema con i loro telefonini nei loro centri d'accoglienza con le piscine, che quello è un po'... Vabbè, che poi tra l'altro sono stati poi ricollocati in diversi paesi d'Europa e quindi non se li sono dovuti neanche prendere loro, insomma... quindi non, io veramente questa settimana ho vissuto la tristezza totale di vedere comunque la... Vabbè, non è nient'altro che l'estensione di quello che già stiamo vedendo. Sì, comunque, alla fine, che poi dopo, la diciamo, capitana... Che al di là della politica, e quindi tutta questa questione, è la reazione della gente, perché una volta la reazione della gente se finiva su internet, ah, ti piace il cazzo negro, ma pure, ah, devi finire stuprata, ho letto delle cose tipo impalata dalla figa, è successo anche questo. Però successo. Poi alla fine queste cose... rimanevano lì su internet, invece oggi sono uscite da bambini, non c'è niente da fare, ormai si sentono tutti legittimati a diciamo così a esternare questa violenza verbale e non verbale, per cui praticamente non esiste più un diciamo così una solidarietà di pancia, di cuore, no. Ma soprattutto poi quando tu, cioè, quello che io non capisco è che noi siamo un paese vicino alla recessione, quindi c'è, cioè, porca miseria, è capace che fra, no, ma non è il paese vicino alla recessione, siamo un paese di, noi siamo immigrati per 150 anni, ma a parte tutta la storia che tu gli dici, vabbè, ma tutta la storia passata, no, non esiste, loro non erano così perché loro lavoravano, invece quelli che arrivano adesso stanno noi lì siamo e il guardano... paese che oggi mio figlio deve cagare sul tavolo del ristorante, ragazzi, e questa è... Io non capisco, ma cioè siamo anche il paese che si potrebbe ritrovare nelle condizioni di queste persone molto presto. Ma magari, tutto sommato. Cioè, io vorrei che uno dei, cioè, vorrei io quello che non riesco a capire quando parlo con persone. Michela, no, una cosa soltanto, poi vado avanti. Quando parlo con persone che magari sono madri dei ragazzi, dei ragazze, di persone che comunque sanno che questi ragazzi non ci avranno un futuro e che dovranno comunque spostarsi all'estero qua in Italia, Cioè, io quello che gli chiedo semplicemente è: ma tu non riesci a metterti nei panni di una madre che comunque manda a fare un viaggio assurdo il figlio, sfidando comunque, certo, la Libia, dicono, i carceri della mai. Libia non lo farebbero mai, si terrebbero il figlio con loro e... eh sì, che tu tieni fino a 200 anni, beh, che capirai, se non c'è lavoro deve andare, ma sai quanti ragazzi abbiamo visto esempi recentemente, anche te, è venuta una persona in ufficio e dice: ah, ma mio figlio, gli fanno fare stage, li mandano in Sicilia, poverini, e che cazzo stavamo a parlare? Cioè, noi, il problema che la gente forse non ha capito è che da una parte c'è questa tendenza di voler amplificare questo atteggiamento fascista, no? Oggi dobbiamo essere tutti duri, cioè, in carcere, castrazione, poi però allo stesso tempo non c'è la forza di volontà di dire: ok, però io sono veramente un uomo tutto tempezzo, perché se queste cose un giorno si rivolgeranno verso loro, cominciano a piangere tutti, capito? E questo poi è il problema. Quando veramente arriverà l'olio di ricino, voglio vedere che cazzo succede dopo dentro questo paese, insomma. Comunque, vabbè, non ci arriveremo mai a questo. Arriveremo. Io andrei con il brano. Sì, andiamo con il brano, anche perché io però non vedo. Ah, allora, noi questa niente, questa volta abbiamo deciso di omaggiare un gruppo famosissimo, che comunque con cui io sono cresciuta, e faccio una piccola parentesi, io l'ho fatto e lo vorrei dedicare a una persona in particolare, che di Napoli, viveva in Sicilia, si è trasferita a Roma e adesso che sta abbastanza bene, praticamente non fa altro che omaggiare Salvini e la Meloni. E quindi non è proprio il brano, insomma, in sé, però i 99 passi insultano tutti i napoletani che hanno votato Salvini e che in qualche modo abbracciano la politica di Salvini, perché ricordiamoci che Salvini era quello che vi diceva: lava lì col fuoco. E quindi io ho deciso di passare 99 posse e di ricordare a questa persona che è veramente una merda. Addio. Perché tagliate la canzone? La canzone, perché è finita la canzone, quindi è ora che rientriamo in studio per riprendere praticamente a parlare. Che poi dopo io una volta dissi a una persona, non so, la stessa persona, quando tu, adesso io dico napoletano perché sto parlando di una persona napoletana, ma poi, cioè, in realtà la cosa si estende a prescindere, no? Sto tipo di discorso. Quando tu comunque vieni, fai l'emigrante, perché fondamentalmente se ti sposti da un posto all'altro vieni a fare l'emigrante, e ti ritrovi con X soldi, perché comunque nella vita comunque ti ha girato bene anche non per merito tuo, e poi vieni a fare il discorso che voti le persone che prima ti dicevano lavalo col fuoco, e dici che è giusto perché l'identità, la cosa, roba del genere, e poi magari tuo figlio torna a casa piangendo perché gli hanno detto sozzo napoletano a scuola, capito? Dopo non te devi lamentare, perché io è sempre su questo. Tante volte io ho fatto una discussione una volta con una persona dicendo: sì, legge sulla, com'è, la legittima difesa, no? Sì. Cioè, ma se tuo figlio scherzando scavalca e si viene una bella schioppettata sulla schiena, mio figlio, no? Non farà mai. Comunque vai, finiamo con sta si watch che in italiano, allora, significa guarda mare. Io vorrei leggere una lettera di Luca Buttura, due minuti, la lettera al cattivista. che è uscita ieri a 2 minuti di lettura proprio, e lo ringrazio perché ha riassunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, anche il, diciamo così, la dedica della mia canzone di poco fa. Dai che adesso sei contento, la figlia di papà, la zecca rossa, la rasta, hai visto come stava bene sulla macchina della guardia di finanza? Ti è piaciuto vedere la gente che le spingeva la testa verso il basso, come si fa coi criminali veri? Tu, bandierino social, fenomeno da tastiera, concentrato di livore, quello che aiutiamoli a casa loro e poi se li aiutiamo, ma perché non si fanno i cazzi loro? E anche tu, giornalista più o meno celebre, che la sera in TV metti la giacca e la cravatta, partecipi al grande talk unico in cui tutto formalmente sembra normale e invece inocula paura solo per trarne un misero tornaconto personale. E tu, pompiere intellettuale, diportista a morale alterna, che per carità, mica sessismo se le augurano di finire impalata per una parte precisa del corpo, sono i social cattivi, ma poi sui social sgangheri, vilipendi, ti accanisci sui deboli. Eppure tu, carne da cannone della propaganda, del gioco a ribasso, sempre e comunque del buono trasformato in buonista per potergli dare del coglione. Tu, che ordine e disciplina, ma per gli altri. Tu che quando c'era l'apartheid, beh, lo diceva la legge. Che quando l'amico del duce gasava le sue vittime, beh, c'era una legge. Che quando un partito truffa lo Stato, aspetta un attimo, la legge è uguale per tutti. Sei contento, dai, tanto contento. Ora che una ragazza che per 1500 euro al mese ha rischiato la galera, l'ha trovata mentre le davi della figlia di papà. Siamo un paese più equo, meritocratico e moderno, ricco, soprattutto onesto. Non abbiamo più 4 regioni a crescere in mano all'Andrangheta, alla Camorra e a Cosa Nostra. Tuo figlio non dovrà emigrare perché lo sorpassa qualche raccomandato e ti dà fastidio solo perché non sei tu. I tuoi concittadini non ti metteranno più le mani in tasca tenendosi nella medesima 180 miliardi l'anno di nero, quelli con cui tuo figlio lavorerebbe al MIT di Roma, che sarebbe più ricco e famoso di quello di Boston. Nessuno ti ruberà più il lavoro, nessuno insidierà le tue donne, potrai insidiartela da solo, come sempre, appunto perché pensi siano due. Nessuno commetterà reati, anche se lo sai che gli immigrati regolari in carcere, percentualmente, sono meno degli italiani. E quando ti accorgerai, come sempre, che ti hanno preso per i fondelli, che il tuo capitano poteva ridistribuire i migranti in Europa, ma non si è mai presentato per chiederlo, perché gli servono così, gli servi così, impaurito e ubbidiente, sarai ancora una volta quello che non sapeva, che se c'era dormiva, come in quel vecchio film di Totò e Fabrizi, sempre stato anti io. Quel giorno forse un po' ti vergognerai, o forse no, perché questo è l'unico caso nella storia in cui il problema potrebbe davvero essere ben altro, ma la verità è che il problema sei tu. Eh sì, e questo è, diciamo, oramai da 7 anni, allora diciamo da 7 anni, quindi figurate quanto siamo stati preveggenti, quanto l'avevamo già capita sta cosa, che il problema siete voi, siamo noi anche. Siamo noi, siamo magari tutti. E siamo però, tutti io... che non ha, che che in qualche modo non agiamo, non parliamo, non ci facciamo sentire, o comunque quando parlano, parliamo... Bene, però quando tu condividi la foto dei Richards dicendo che prende 3.000 euro al mese dal governo italiano, mentre che l'invalido civile... No, ma guarda, 400, secondo me è anche la cosa che a un certo punto uno riesce... cioè loro riescono in quell'intento, perché tu a un certo punto... cerchi di combatterli, no, su questi famosi leoni da tastiera, rispondendo, però a un certo punto non ce la fai più, perché tirano fuori argomentazioni assurde, di giustificazioni assurde, semplicemente per il loro razzismo, e quindi ti senti impotente e poi vabbè, ci sarebbe tutto un discorso da fare sui social, io ve lo dico, perché tanto così non cioè magari poi un giorno riusciremo a approfondirlo meglio, perché stavo affrontando questo argomento anche con alcune persone, anche un influencer tra virgolette, che stanno su Instagram, perché sto proprio cercando di capire qual è il nostro compito in questo momento, e è difficile, cioè veramente senti veramente l'impotenza, perché poi non è che sei una persona perfetta, quindi qualsiasi cosa tu possa avere di sbagliato viene presa come bandieruola per dire questa persona parlava a favore dei negri, però vedi che cosa, che ne so, cioè io mi sono sentita rispondere, ragazzi, io mi sono sentita rispondere da una ragazza in uno dei tanti post che ho condiviso, da un'amica di famiglia che non vedo da 30 anni, mi sono sentita rispondere, accoglili nella tua fantastica villa se proprio li vuoi sti negri, cioè raga, non ci siamo proprio, non so più dove appendere la speranza, diciamo così. Vabbè, la speranza, vabbè, comunque l'hai già detta sta cosa, vabbè, però la volevo ribadire. No, è noioso che tu ribadisci sempre le stesse cose, lo vedi. E questo è il problema, che la gente si annoia perché basta, non gli interessa, è noioso. Comunque il più bravo di tutti è stato molto molto più bravo di Bottura, il più bravo di tutti è stato Sio. Con una vignetta dei quattro scarabocchi, perché su quattro scarabocchi ha sintetizzato l'essenza di questo paese. Oggi. Sì, assolutamente. Cose in generale, secondo me, perché poi noi diciamo di questo paese, ma secondo me è un discorso generale. Ossia, praticamente, la Sea-Watch, problemi, la gente... Ma che ce frega? Il doppiaggio di Evangelio, schifo, scandalo, chi ti paga, merda, petizioni... Questo è un po'. Vabbè, io farei così, guarda. Allora, diciamo che Sio si è tra l'altro no, volevo pubblicizzare il suo libro, perché lui ha fatto un libro, sì. È da poco uscito un suo libro proprio che racconta le storie dei migranti, però forse ve lo dico nel prossimo spazio il nome del libro, perché non riesco a trovarlo, quindi appena lo trovo ve lo dico. E chi ti paga per fare questa cosa? Nessuno, sì, o non ci paga, però posso dire di averlo incontrato quando ancora non era famosissimo, e è stato un incontro molto piacevole. Bene, quindi ciao Sio, ciao. Ciao, bella per te, ciao Sio, mi raccomando, ciao. And her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. E niente, scartabellando fra le varie cose, siamo scordati insomma che la trasmissione va avanti, quindi stavamo per non tornare in tempo, ma poi allora... le ultime note, che poi, Michela, parliamo seriamente. Allora, intanto dobbiamo disannunciare il brano, perché non abbiamo neanche annunciato. Ah sì, era David Bowie in Life of Mars. Okay, vero, che è il posto dove tutti vorremmo vivere in questo momento. Ma non so più tanto, questo, cioè Marte non è proprio un posto accoglientissimo, però ti volevo dire, Michela, che a volte... Ma come? C'è Alexa che tutte le mattine ci racconta della nuova primavera su Marte? Vabbè, infatti, però quelli stanno dentro... Comunque, volevo dire che a volte può capitare che uno c'ha degli impegni. E quando tu c'hai questi impegni, cioè tipo, che ne so, devo andarmi a far fotografare la fregna, per esempio, oppure le tette, oppure allora, il culo, non lo so, a un certo punto dici, oh, vado a prendere il treno, non ci riesco a prendere il treno. Che è successo? È successo che c'è il Gay Pride, fantastico, bellissimo Gay Pride di Milano, che tra l'altro è stato tutto il mese, questo è stato il mese del Pride, quindi ci sono stati Gay Pride dovunque, si sono visti anche Gay Pride a Brescia, cosa che nessuno si aspettava mai che succedesse, invece diciamo che questo mondo di colori e di libertà è esploso dovunque, e quindi bellissima manifestazione a Milano, storica, bellissima, con Levante che cantava, controtendenti, tutti invertiti, tutti gay, lesbiche, bisexual, eterosessuali, tutti insieme a festeggiare la libertà di amare. Scusa, che c'entra? gli eterosessuali, cioè quelli giusti, festeggiano insieme a libertà di farmare. La libertà di farmare è solo Marco Guardi che ci fa fare la manifestazione. E comunque se, si sono raccolti tutti a Milano e hanno bloccato il traffico di Milano parecchie ore, perché erano 300.000 persone in centro, quindi è stato difficile gestirli. E arriva da una importantissima fotomodella, attrice. Mai sentita, devo dire la verità. Sì, che praticamente si è incavolata perché questo gay pride le stava facendo perdere il treno e quindi con molta gentilezza ha detto: mamma mia, questo corteo di persone bizzarre, bizzarre mi sta facendo ignoranti, questi schifosi. Sì, ma sto facendo il verso, vabbè, diciamo le cose come stanno. Sì, vabbè, poi dopo avrei detto quello che praticamente a un certo punto ha fatto una stories su Instagram, quindi anche un po' scema, e lei in quel momento ha inneggiato praticamente alla morte di tutte queste persone, immediata, cioè tipo fulminante, e ha auspicato praticamente all'imminente ritorno di Hitler. Quindi proprio stupenda, cioè io... Questa si chiama Stella Manente. Sì, ricordiamocelo. Il treno per il Milano Gay Pride, sbotta, perché non esiste più Hitler? Ecco. Sì, poi abbiamo visto il video. Poi dopo ha fatto un altro video su Instagram dove si scusava, perché lei diceva che non conosceva il Gay Pride. Cioè, ma poi io... Queste ragazze, oltre alla cocaina e al pisello, no? Cioè che non, amo, cioè, non conosco... Amo, non ti mettere alla loro... No, ma è così, scusa. Fino a poi hai bestemmiato contro chiunque, posso dire... Cioè, sì, vabbè, ma io non sono stata offensiva. Oggettivamente, questa persona vive in un mondo che non esiste. Cioè, tu non mi puoi venire a dire... Io ho detto... Però Hitler lo conosci. Cioè, non sapevi che c'è il Gay Pride, che esiste il Gay Pride, perché lei ha detto: io non sapevo che esistesse il Gay Pride, mi dispiace, mi scuso. Vabbè, ma evidentemente sfogata, è una persona che legge importante. È una persona che legge poco in vita sua, quindi magari non ha letto manco un articolo di giornale negli ultimi 20 anni. E quindi comunque è stata fantastica, perché poi si è praticamente scatenato tutto il mondo contro di lei e si è scusata perché ha detto che non conosceva Hitler, cioè, dice Lopi. È capace, è capacissimo. Ma era Hitler che si è scusato, dice, non conosco lei, però tutto a posto, comunque tutto a posto e niente in ordine come sempre. Però vabbè, è stato una parentesi veramente, cioè io non lo so questa come ne uscirà, perché poi ho letto comunque delle persone che invitavano i vari marchi che in qualche modo la sponsorizzano, come Gucci, Prada, Valentino, eccetera eccetera, a boicottarla. Quindi cocco e pisello, non è tutto a posto. Oh. No, ho letto che la boicotta, cioè invitavano a boicottarla. Forse ti prendono in testa, capito? Niente, non stupide, capito? Cioè, amo, finiscila. Oddio. Così ti metti al paro di quelli che parlano dell'imparatura. Noi oggi dobbiamo fare lo stesso gioco, deve essere fronte contro fronte. Su questo non deve passare più nessuno, io li segnalo tutti. Su questo non mi troverai mai d'accordo. Tutti hanno rotto il cazzo, basta. Cioè, sulla legge degli insulti non mi troverai mai d'accordo. Il radical chic, quello di sinistra, che noi però siamo superiori e quindi va bene. Noi siamo superiori. Facciamogli conquistare il mondo, mentre noi stiamo passivamente a dire mannaggia i pescetti, questi brutte persone. Noi siamo superiori, noi siamo superiori. E dobbiamo combatterli con l'informazione, con la perseveranza. Non la legge nessuno. Non fa niente. Bisogna insultare, oppure al massimo andarli a prendere sotto casa. No, assolutamente io non sono d'accordo. Sono d'accordo su quello che praticamente è stato fatto da tantissime persone, anche nell'ambito social, che comunque hanno invitato i vari sponsor che in qualche modo si sono schierati a favore dei Gay Pride e hanno apertamente appoggiato del Gay Pride a boicottare questa persona, perché comunque questa persona nel momento in cui non lavorerà più per quello che ha detto, avremo vinto. Beata te. Ah, ho capito. Vabbè, ma questo comunque, è il mondo che io voglio, e questo, e questo sì, è il mondo che se non ce l'ho, pazienza, cioè, no, facciamo il tema delle elementari, il mondo bello con la pace, gli uomini che si vogliono bene. No, non è, non è assolutamente così. Non comunque, voglio farmi Miss Milano, America. Milano Pride 2019, il corteo è 300.000 persone, mica 300.000 persone. Mica certo, insomma. Scusate. Ecco, sta morendo. Mi puoi passare un po' d'acqua tua? Un po' d'acqua mia, perché l'ho tenuta. Un corteo molto, vabbè, ce lo dici dopo, adesso prima bevi. 300.000 persone, ricordatevi che la lotta del Gay Pride, insomma, è una cosa che dura da 50 anni, no? Quindi per i diritti dell'omosessualità e insomma. Perché sto cellulare facendo queste cose? Scusate. Il telefono vi stava facendo portare dei rumori strani, quindi l'ho dovuto spostare. E no, è stata bellissima la settimana in tutto, in tutta, cioè il mese proprio in tutto il mondo, perché abbiamo visto delle manifestazioni di Gay Pride, come dicevo prima, in posti che non pensavamo neanche che potessero mai, che avessero, che poi che avessero mai festeggiato il Gay Pride, come appunto Brescia, Bergamo, quindi insomma perché tu forse non sapevi che esisteva Bergamo. No, perché conosco Brescia e Bergamo e non credevo mai che potesse succedere che ci fosse. Come qualche gay c'è anche lì, insomma. Sì, sì, sì, assolutamente, però purtroppo cioè un po', diciamo così, chiusi mentalmente, va bene. E no, però no, ma noi non insultiamo nessuno. No, non insultiamo nessuno, però cioè tu quando tutto a posto, quando entri, lei è la prima volta che sta arrivando a Bergamo, ho detto io voglio andare via, perché ho letto dei diciamo così, delle offese in giro per i muri, che non i famosi giri per i muri. Non avrei mai voluto essere lì, insomma, quindi diciamo che non è una città, non sono città ospitali in tutto e per tutto, però sono molto contenta, diciamo così, della piega che ha preso questo mese del Pride e del fatto che si è potuto in qualche modo festeggiare dovunque, e sono molto contenta della riuscita di Milano. E che poi tra l'altro Milano ci agganciamo a questa cosa brevemente, cioè, Milano la valli col fuoco chiaramente, no? ha avuto una doppia vittoria in settimana, perché poi ha vinto anche contro diverse città, ha vinto praticamente l'asse Cortina Milano per i mondiali olimpiadi, per le olimpiadi, scusate, invernali del 2026, quindi insomma il sindaco Sala sta facendo buone cose, e quindi io sono molto felice e avrei voluto partecipare ad un Gay Pride. So che quello di Roma è stato molto bello, anche se lì poi si sono visti su Facebook immagini di gente che ci ha detto che eravamo tutti depravati, perché mi ci metto anch'io, anche se non c'ero, perché comunque quello spirito c'ero, tutti depravati, che allora i gay non dovrebbero fare tutta questa spettacolarizzazione, che io mi chiedo, quando fate le feste de paese o le feste comunioni e i battesimi e fate venire le brasiliane che ballano coi culi dei fuori, ma non è la stessa cosa? Cioè, l'allegria e il folklore è allegria, il folklore per tutti. Allegria è una cosa, i culi sono un'altra. Capito, ma cioè, si fa, c'è il Carnevale di Rio, c'è tutto un mondo di spettacoli. Tra l'altro, ricordando il discorso dei migranti di prima, cioè alla fine c'è questa nave, questo barcone della Open Arms, che praticamente è un 55 a bordo, ma infatti sbarcava 11 a Lampedusa, quindi sì, oggi hanno sbarcato su quelli però no. oggi è la nave dell'Open Arms, che poi è chiaro che da questa poi è una cosa che nasce dal Movimento 5 Stelle, quindi ricordiamo che sono loro quelli che hanno cominciato a fare la propaganda, ah, che sì, l'ONG erano tutte organizzazioni criminali, quindi vabbè, dai, si dice Lobby che Gay Pride c'è stato anche a Verona, quindi cioè veramente laddove si è posato l'embrione del Family Day, cioè. Praticamente, cioè, questi io immagino sfilavano e facevano Sieg Heil, capito? Erano perché non potevano, sì, ok, gay, però Non so se mi sono spiegato, insomma, vabbè. Dai, una battuta che ho capito soltanto io. Meno male. Allora, io adesso, dato che c'è un brano, ma c'è un brano dedicato a tutta questa euforia. C'è Rockin' in a Free World, ok. Dedicato a tutta questa... Bello, il modo di fare radio professionale. è dedicato ovviamente alla settimana, al mese del Pride, a tutti gli amici gay, etero, bisexual, che praticamente sono... Non abbiamo. Come no? Come non abbiamo? Ci rifiutiamo di avere amici bisexual, fra gay, bravi, però. Noi abbiamo amici di tutti i tipi e siamo felicissimi tutti di avere. I colori soprattutto. Assolutamente. Gialli, verdi. Assolutamente. E siamo felicissimi di avere con noi tutti questi amici. Dai, e gli dedichiamo questa canzone. Che tra l'altro... Dai che lancio il brano. No, ancora tra l'altro, c'è sempre una primetta. No, dai, tra l'altro è la canzone che Addi Vedder metti sempre alla fine di tutti i concerti. Ciao. E io andrò a vedere Addi. E quindi rientriamo in studio, perché questo è un periodo in cui bisogna essere liberi, essere felici, e quindi ci siamo ascoltati questa bellissima canzone che insomma che incita, insomma, che dobbiamo essere nel mondo felice, ricco e libero. Però poi alla fine succede, insomma, che ti rendi conto che in effetti qualcosa nel mondo sta cambiando, la storia sta cambiando, ci sono degli eventi epocali che noi li guardiamo e non ci rendiamo conto, cioè nel senso diciamo ma saranno veramente eventi epocali, storici? Eh sì, lo sono, perché a volte basta un passo, scavalcare col piede un marciapiede per passare alla marciapiede successivo e hai fatto la storia. E chi è che fa la storia in questo periodo? Fa la storia il più grande dei cialtroni che la politica mondiale abbia mai visto, che fa il forte, il cazzoturista coi cinesi e dice io adesso qui va azienda vostra, sì... Via un po' qua, perché poi la cosa bella è che i cinesi hanno fatto con Trump quello che hanno fatto con Kim Jong-un, questo qua del Kim Jong-un, cioè nel senso quando Kim faceva il matto, i cinesi lo prendevano, lo mettevano dentro un treno e lui ritornava buono, e hanno fatto la stessa cosa con Trump, no? Quindi mo Trump si è incontrato con Kim e praticamente è stato il primo presidente degli Stati Uniti nella storia a varcare il piede e camminare, fare due o tre passi nella Corea del Nord. Ma se voi vedete questo filmato, della tristezza e di un fantoccio, sì, io una cosa del genere non la vedevo dai filmati degli anni 30 di quando facevano finta di aver costruito le stazioni perché arrivava Hitler a Roma, cioè nel senso delle cose del genere. Era bellissima sta cosa, perché uno scenario desolante, cioè proprio tipo da sera, avevamo preso proprio l'unico pezzo de mondo a malapena decente per poter fare sta cosa. Lui fa sti tre passi, anzi due passi, prende sotto braccio Kim e ritorna indietro, perché dice no, boh, sì, ok, hai fatto due passi, però mo non rompe troppo il cazzo, torna indietro. Ma non è che me sparano se vado un po' più avanti, non si sa mai, cosa veramente, ragazzi. Comunque Simone Pizzi, ovvero mio marito, ovvero il nostro presentatore, ha scoperto oggi che Mia Gunn parla anche inglese. Ah sì, è vero. No, io pensate, mi domandavo, invece con disinvoltura anche. Mentre non so, sentivo che stava per squillare un telefono, però. Anch'io, però potrebbe essere tipo morto? No, è qui il telefono. Ci ho ripensato, evidentemente. Ma io ancora, perché sennò stava qui che squillava. Quindi. Squillava e ci rovinava la trasmissione. Forse è qualche fan che vorrebbe intervenire in diretta. È comunque una svolta epocale questa, perché comunque è un... cioè, si vede che, diciamo così, determinati... punti di riferimento mondiali stanno in qualche modo esplodendo, cambiando, c'è un disordine generale, insomma, in cui non si capisce bene quali saranno poi gli effettivi cambiamenti dell'assetto mondiale. I cialtroni stanno prendendo mano dovunque. Ma secondo me, guarda, la verità è che chi comanda oggi, a differenza del passato, la guerra globale non fa comodo a nessuno, perché comunque chi detiene oramai il 60-70% del mercato mondiale, in più detiene una buona fetta del debito americano, preferisce che i soldi girino così in questo momento. Una volta invece conveniva fare le guerre, oggi conviene fare le guerre, quelle sotterranee, quelle che non tanto lo sai, che lì a città Sbed e Wonder si stanno a tirare le bombe, quindi che cazzo te ne frega. E la guerra globale invece non conviene a nessuno, e quindi la Cina fa la pace a tutti. Molto più della Russia, perché la Russia ogni tanto faceva: no, però a me sta bene, questo lo difendo io. Però poi, diciamoci la verità, Putin un po' ha fatto il suo corso, non so ancora più nessuno. Ah, Lobby ci lancia il nostro redattore di fiducia, ci lancia un tema a cui non avevamo pensato di parlare, ma ne parliamo adesso, è la cocaina sull'aereo di Bolsonaro, che tra l'altro poi Bolsonaro è un altro personaggio inquietante. Il mio amico. Ma come il tuo amico? È un personaggio inquietantissimo, è una persona veramente... cioè la persona più fascista. Narcos, il personaggio da Narcos, ma che vi aspettate? Cioè, che cosa vi aspettate? Cioè, non è che il Brasile sta messo veramente così bene. Cioè, lui è veramente razzista. Quindi in un paese maggioranza di persone nere. E anche lì, diciamo che quando tu ci hai avuto diverse amministrazioni d'estrema sinistra, che comunque hanno governato i socialisti, i comunisti per un periodo di tempo, cioè, e alla fine sì, ok, le riforme sociali e roba del genere, però poi alla fine sono zozzone. Dopo non te puoi lamentare, capito, che in un paese assurdo e super contraddittorio come il Brasile poi alla fine vinca anche l'estrema destra, insomma, perché può succedere. Ricordatevi sempre che il Brasile è un paese ultracattolico, di quelli... Sì, hanno questa cosa veramente un po' inquietante. I carismatici fanno tipo le riunioni nello stadio, fanno dei mega concerti dove si riuniscono in migliaia e migliaia di persone. E io si fanno le bombe. Vi consiglio un libro che si chiama Un soffio dello spirito, dove si capisce bene la realtà, diciamo così, del Sud America, soprattutto del Brasile, a livello comunque di comunità cattoliche e religiose in vari modi, insomma, di quanto la religione influisce sulla società, soprattutto sulla società più povera, sui ceti più poveri. E quindi allora parliamo di Bolsonaro, che è stato ritrovato, sono stati ritrovati ben 40 kg di droga all'interno dell'aereo del presidente Bolsonaro. Il carico sembrerebbe appartenere a uno dei componenti dell'equipaggio. Ovviamente. Diciamo che se l'erano portato, secondo me se lo dovevano spartire tutti quanti, avevano caricato uno, gli hanno detto: oh, se succede qualcosa la colpa è tua. Poi ci pensiamo noi, non ti preoccupare, dai. E niente, il capo di Stato sudamericano ha preso subito le distanze dall'arresto e ha commentato... su Twitter dicendo che è un episodio inaccettabile, ci saranno indagini, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. E quindi è stato il militare, un 38enne, un sergente del gruppo speciale di trasporto della forza aerea brasiliana, un povero Cristo. Comunque io gli dico: 40 kg, ma che cazzo ci dovete fare? Cioè veramente, ma boh. Beh, ma il viaggio era lungo, ma che durante il andata, viaggio? Andata, ritorno. No, ma dai, durante il viaggio in alta quota ti scoppia il cuore, no? Andata, ritorno, soggiorno. I membri comunque dell'equipaggio e della scorta di Bolsonaro erano tanti. Oh, ma guarda, 40 kg. Cioè, qua lo dico e qua lo nego, non so esattamente quanto possano essere, nel senso che non ho mai fatto uso di droga, di cocaina in vita mia, quindi non ho idea, però sinceramente secondo me 40 kg per un bel gruppetto di persone bastano, avanzano, insomma. La festa è lunga. Comunque io lancerei il brano per andare poi alla conclusione, quindi ai saluti della trasmissione, però ricordando e salutando la nazionale italiana di calcio femminile, sì, che non solo praticamente ha quasi partecipato per la prima volta nella storia al campionato mondiale, cioè ci aveva già partecipato, però per la prima volta era riuscita ad arrivare praticamente prima nel girone, per la prima volta era arrivata fino agli ottavi di finale e superando gli ottavi di finale e i quarti di finale, quindi tra le prime otto nazioni del mondo, uno sport che in Italia non è neanche professionistico e che si sta facendo adesso la riforma per farlo diventare professionistico, che hanno vinto tutte quante le partite di qualificazione. Io la seguo da 2 anni e mezzo sta storia della nazionale, sono stato contento, sapevamo perfettamente che più di dove è arrivata l'Italia secondo me non poteva arrivare. Vabbè, ma hanno fatto tantissimo, sono state bravissime. E infatti alla fine comunque anche loro sono consapevoli della grande impresa che hanno fatto, e quando poi alla fine c'è un modo, c'è un momento in cui tu entri nell'Olimpo di qualcosa e te presenti, dice oh. Che poi tra l'altro questa canzone è veramente ci capita acceso, perché Blackbird comunque nel testo dice prendi le tue ali e impara a volare, quindi facci vedere quanto sei stupendo. E loro saranno bellissime, bravissime. Le seguiremo anche in futuro. Ciao! No, ciao, che mo torniamo, nel senso con l'ultima notizia e i saluti finali. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing and wings and learn to fly all your life. E rientriamo in studio sulle bellissime note delle canzoni dei Beatles, che sono sempre qualcosa insomma di bello da ascoltare, soprattutto quando sono così delicate, così carine, e quando poi alla fine si crea questa specie di sottofondo, questa specie di atmosfera anche romantica, poetica, dobbiamo dirlo, Michela. Dobbiamo dirlo. Tocca fa cose? Che dobbiamo dirlo? Che senti la canzone, quindi che fai? Adesso devi dare una buona notizia, giusto? Assolutamente, scusa, ma mi hai colto sprovvista, certo, che ho detto ma che su Instagram pure quando fai la radio, no, poi no, dimmi che non è una cosa da psicanalizzare. No, non riuscivo a prendere il gancio, io non stavo su Instagram, stavo cercando la notizia che dovevamo leggere adesso. Ma la stavi cercando su Instagram però. Dobbiamo rendere questo momento ancora più felice e comunque salutarvi con tanta gioia, perché noi siamo comunque persone felici, però siamo persone recesse e persone aderenti alla realtà, che comunque si barcamenano nella recessione, e quindi si barcamenano nel senso che in barca si menano. No, dice si barcamenano perché cercano in qualche modo di trovare il modo di riuscire ad andare avanti in un futuro un po' incerto. E niente, da qualche giorno, è del 14 giugno questa notizia, l'allarme dell'ONC scattato dopo i dati sull'industria rilevati nella giornata del 14 giugno. L'Italia in recessione è un'ipotesi verosimile, secondo l'UNC, che ha guardato con timore ai dati sull'industria nostrana. L'ISTA ha alzato il velo sull'andamento del settore nel mese di aprile e i dati hanno deluso tutte le attese del mercato, che hanno fatto storcere il naso all'Unione Nazionale dei Consumatori, che rispolverando lo spettro della recessione non ha mancato di ricordare l'esito delle ultime rivelazioni inerenti alla produzione industriale. Le previsioni degli analisti hanno rappresentato l'ennesima tegola caduta sul bel paese, e quindi lo scorso 10 giugno l'Istat ha confermato il peggioramento della produzione industriale, nel quale l'output è sceso dello 0,7% su base mensile e dell'1,5% su base annua. Hai capito? Poi sono arrivati i dati sul fatturato. È questo, è l'input? Sono arrivati i dati sul fatturato e sugli ordinativi, che hanno rivisto a ribasso tutte le previsioni del mercato. E quindi niente. Che vogliamo fare? Dati pessimi. Ora c'è il rischio della recessione. È tutto a posto, come dice Conte, sarà un anno meraviglioso, come aveva detto, sarà un anno bellissimo, sarà un anno stupendo, sarà un anno quello che vi pare, però il quadro è sconfortante, ma noi in qualche modo ne usciremo se continuiamo a concentrarci solo su, diciamo così, le notizie cartello, che in qualche modo poi nel frattempo, come abbiamo visto, mentre tutti eravamo distratti dalla Sea Watch, sono stati comunque tolti dal bilancio circa 4 miliardi destinati all'istruzione, quindi insomma soprattutto al sostegno. Quindi il quadro è abbastanza inquietante, è abbastanza difficile vedere un miglioramento, però noi siamo comunque ottimisti e quindi ce la faremo sempre e comunque. Vabbè, male che va, saliremo sui barconi anche noi. Nel frattempo stavo guardando il profilo Instagram di Stella Manente e continuo a sostenere che penso che quello che ho detto è... Vabbè, ma perché devi essere offensivo? Sia corretto, insomma. Cioè, tu sei un signore, porca miseria, nella vita. Ma poi, cioè, non se la caga manco nessuno. Ma sì che non se la caga nessuno. Forse è questo, lei si è trovato il momento di... Sicuramente, come Lorella Cuccarini, che quando ha visto che Salvini era l'amato da tutti ha cominciato ad adulare Matteo Salvini, adesso improvvisamente è finita in televisione. Quindi è così che funziona, è questo il mondo. Abbiamo tutte e due comunque un pregresso di lavoro nel mondo dello spettacolo, nel dietro le quinte, perché purtroppo noi non siamo così belli da essere. Però nel dietro le quinte, io personalmente ho lavorato nell'ambito musicale e quindi ho visto che la politica fa molto, e Simone l'ha visto in altri ambiti. Quindi cosa? Scusa, ero distratto. Ho detto che abbiamo tutte e due un pregresso di lavoro nel mondo della cultura. Io personalmente ho lavorato nell'ambito musicale, ho visto che la politica fa molto, ma è bello che devi ripetere cose 30 volte, poi dopo quella da psicanalizzare so io, eh? Vabbè. Va bene, allora scusate, però aspettate, ok, tutto a posto, non è successo niente. No, stavo cercando di vedere se riuscivo a estrapolare non il primo messaggio di Stella Menante, come cazzo si chiama, che quello di Hitler, che è stato chiaramente rimosso, perché oggi è facile, no? Cioè, oggi io bestemmio e me la piglio con qualcuno e poi dopo gli dico: guarda che ti stanno riempite di merda, di dislike, Instagram magari pure, insomma, nota poi troppo il traffico, poi ti blocca anche il profilo, roba del genere. Quindi è facile, cancelli e risolto il problema. Il problema poi dopo è quello che dici, cerchi di scusarti, perché poi... E secondo me le scuse a volte sono più goffe dell'evento in sé, no? Perché chiaramente... E niente, però non volevo cercare di estrapolarlo per farvelo sentire, però non è molto facile con i mezzi tecnici che abbiamo a disposizione, ma ci attrezzeremo un giorno. Mentre invece noi a questo punto il nostro aperitivo è finito e vogliamo salutarvi, sì, ringraziarvi. Avevamo pensato, insomma, di fare almeno una puntata al mese e a giugno siamo riusciti. Sì, abbiamo fatte due. Siamo stati bravi, quindi ci ritroveremo a luglio. A metà luglio. Quando Michela poi tornerà anche dall'Irlanda, che si è andata a vedere di vendere, così ci romperà un po' i coglioni con questa cosa che è andata a vedere. Però insomma, lei è contenta e quella è la cosa più importante. Avremo magari altri temi, perché abbiamo dei temi veramente che dobbiamo focalizzare. Dobbiamo solo organizzare e vedere se le persone con cui parlare di questi temi hanno il tempo di venire qui su YouTube. Intanto sì, io non so se c'è ancora tempo, però se qualcuno di voi non ha fatto la dichiarazione dei redditi e non sa dove buttare 5 per 1000, ricordatevi che c'è sempre un posto bellissimo dove i cani vengono, un posto al sole, vengono trattati come principi, un canile speciale che si chiama Rifugio Code Felici, cercatelo su internet e lì troverete anche il numero del codice fiscale da inserire per la donazione del 5 per 1000. È una donazione garantita, garantisco io, quindi qualora vogliate farlo io... Che ha rubato a mani basse come i socialisti degli anni 90. sono molto felice di portare avanti questa bandiera, quindi piccolo spot. E allora io intanto vado con i saluti, poi dopo lascio a te la parola. questa canzone che andrà con i saluti è una canzone che in qualche modo riassume più o meno il sentimento che ci accomuna, almeno che accomuna me e che accomuna molte persone che in qualche modo sono preoccupate per queste povere anime che in qualche vagano tra l'Africa e l'Europa, gironzolano come diceva qualcuno, gironzolano in cerca di un futuro migliore, e vorrei che restassimo tutti umani. Come diceva qualcuno. Sì, e quindi io vi saluto al grido, proprio il grido totale di restiamo umani, punto e basta, cioè senza se e senza ma. Bene, allora ci vediamo presto. Nel frattempo passate una buona estate, queste sere molto calde, passatele insieme a chi vi va, andate in giro, divertitevi, bevete qualcosa anche alla faccia nostra. Noi torniamo presto. E come diceva Michela, vi facciamo sentire questa canzone in chiusura, noi vi salutiamo e poi ci vediamo appunto alla prossima, che è la canzone di Mirko il Cane. Io non mi ricordo bene se noi l'abbiamo già messa sta canzone, perché potrebbe anche essere, però potrebbe anche non piacere a tutti questa canzone, però io invito tutti ad ascoltarla attentamente, perché io la prima volta che l'ho ascoltata, e l'ho ascoltata un po' distrattamente, mentre che l'ascoltavo è come una cosa che ti entra piano piano nelle orecchie, e poi a un certo punto te la sei trovata dentro al cervello e hai detto, cioè cazzo, sta canzone parla di tutt'altro, cioè è qualcosa di sconvolgente, e non è che dici, sai, la faresti sentire a Salvini, tanto lui ne fregherebbe un cazzo, perché secondo me c'è per fare il politico. Ma ha vinto Sanremo Giovani, quindi credo che Salvini in qualche modo l'abbia sentita. No, però cioè, sicuramente, ma manco l'ha capito, perché secondo me per essere politici come Salvini non ci vuole il fegato, non ci vuole proprio la psicopatia, cioè secondo me devi essere così, cioè sei una persona così, non è che oggi ci fai perché la politica te lo impone. Quindi io vi suggerisco di ascoltare attentamente questa canzone, e noi ci sentiamo fra una, due o tre settimane, insomma, nell'appuntamento di luglio di Everything, con magari, se vi è piaciuto questo esperimento, con l'appuntamento appunto con l'Aperitink. Ci vediamo alla prossima puntata. Sette e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange, non la smette più, e per tre giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice, che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento, e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta, e sai che rottura, dico arrivo primo come sempre, allora sono attaccante, scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, tutto molto bene come si conviene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, c'è nulla per cui di doppiare, preoccupare o scomodare. Ma guarda te la iella, proprio a me doveva capitare. Quattro giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio, stare in tre seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare, ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah,